Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Tra Grecia e creditori ancora l'accordo non c'è, ma si tratta freneticamente in queste ore, è ripreso ormai anche l'Eurogruppo, e allora sentiamo Livia Zancaner. Sì, buongiorno Anna. La nuova riunione dei ministri delle finanze è in corso, nonostante ore e ore di riunioni ieri sera, stanotte, questa mattina, anche tra lo stesso Tsipras e i leader di BCE, Unione Europea e Fondo Monetario, le posizioni sono ancora molto lontane, non vi è l'accordo su un testo. A ribadirlo, entrando al vertice, il presidente Dijsselbloem. L'unica cosa presentata finora all'Eurogruppo è quello che hanno fatto insieme Unione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale. Su questo non c'è l'intesa dei greci, vedremo. Sulla stessa linea il ministro tedesco Schäuble: c'è una grande differenza tra le posizioni, che sono ancora più lontane di prima, non abbiamo fatto progressi. I greci si sono mossi all'indietro invece di fare passi avanti. Più ottimista invece, come sempre, il commissario europeo Moscovici: credo che un buon accordo sia portata di mano. I punti della discordia sono sempre gli stessi: IVA, pensione, tasse. La Grecia propone nuove tasse, soprattutto su aziende e cittadini più abbienti. I creditori, Fondo Monetario in primis, vogliono invece tagli alla spesa, una stretta alle pensioni, maggior aumento dell'IVA. Altro no del debito: Tsipras vuole un impegno esplicito a negoziarlo. E per ora è tutto a te, Anna. E grazie a Livia Zancaner. Naturalmente lo seguiremo, e tra poco più di un'ora si riuniranno, dicevamo, anche i capi di Stato e di Governo per un vertice cruciale. Oltre alla Grecia sul tavolo, le trattative, anche queste complesse, sull'immigrazione. Su questo l'accordo però potrebbe arrivare, c'è una bozza d'accordo sul dossier per la redistribuzione dei migranti, aspettiamo e vediamo, ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans al suo arrivo al prevertice dei socialisti europei. Uno dei nodi è quello dei rimpatri. Francesco Cherubini è docente di diritto dell'Unione Europea alla LUIS di Roma. Al microfono di Roberta Giordano spiega: sono molto costosi e molto complessi. Si riesce a gestire il rimpatrio con numeri piuttosto esigui per due ragioni fondamentali. La prima è che non tutti i soggiornanti irregolari vengono rilevati. Quelli che vengono rilevati vengono impatriati per una percentuale del, ma non solo per l'Italia, per tutti i paesi europei, circa il 40%, perché il rimpatrio è molto costoso. E poi, una volta che io ho scoperto che Tizio può essere rimpatriato perché non ha diritto alla protezione internazionale, allora poi naturalmente devo procedere a riportarlo nel paese di origine o in un altro paese dove ad esempio ha transitato. Per farlo c'è bisogno di un accordo con questo paese. Senza questo accordo, cioè senza il consenso del paese nel quale lo rimpatrio, il rimpatrio è impossibile. Il Consiglio europeo dovrebbe in qualche modo cercare di risolvere i punti di vista differenti di alcuni stati membri sulla cosiddetta relocation. È un meccanismo molto importante. Perché? Perché in buona sostanza distribuisce non i beneficiari della protezione internazionale, ma coloro i quali hanno fatto richiesta. Quindi, sgravando il paese nel quale costoro, o i paesi nei quali costoro hanno fatto ingresso, almeno nella maggior parte, in questo caso il meccanismo riguarda l'Italia e la Grecia, dall'onere di fare quella scrematura fra beneficiari della protezione e invece persone che non possono beneficiarne, che è assolutamente necessario per rispettare i vincoli internazionali. Intanto a Bruxelles si discute in queste ore, per la verità, anche d'altro, anche di economia su un altro fronte: se l'Europa adotterà il cosiddetto modello circolare, che punta sostanzialmente sul riciclo e riuso, condivisione dei beni, piattaforme digitali, ogni famiglia potrebbe risparmiare 3.000 euro all'anno. A fornire la stima uno studio lanciato oggi a Bruxelles da Ellen MacArthur Foundation. Materie prime e componenti oggi costituiscono tra il 40 e il 60% dei costi di produzione della manifattura in Europa. In uno scenario di economia circolare, secondo lo studio, si potrebbero ridursi i costi del 32% nel 2030, del 53% per il 2050. E infine, crisi a parte, si avvicinano ormai anche le vacanze. Bene, sono gli italiani a detenere il record europeo per la maggior parte delle vacanze trascorse d'estate, in particolare ad agosto. Il 74% delle notte turistiche degli italiani, circa i tre quarti, si concentra nel periodo estivo, spiega Eurostat, a differenza degli altri paesi in cui sono distribuite diversamente. La maggior parte delle vacanze d'estate degli italiani si svolge poi in Italia, settimo testo di vacanze domestiche, dopo Grecia, Spagna, Romania, Bulgaria, Francia. Francia e Portogallo. E con quest'ultima curiosità ci fermiamo qui. Oggi occhi puntati sui vertici europei, torneremo a parlarne nei nostri GR. Da Anna Migliorati ancora una buona giornata. Europa 24 vi dà appuntamento ad Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.